tradizioni son del mondo una realtà, usi e costumi son dell'uomo proprietà, i vecchi ai figli raccontavano la vita, storie e canzoni rimanevano nel cuore. E come allora, meglio sarebbe se non ti avessi amato. Sapevo il credo ed ora l'ho scordato, pur non sapendo più l'Ave Maria, come potrò salvar l'anima mia. Le tradizioni non bisogna mai scordare, son patrimonio della nostra società. Passano gli anni, si rinnovano i ricordi, quando è la festa di paesi e di città. E come allora, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Le tradizioni, storie dell'umanità, van ritornare ad un tempo un'altra età. Frasi e proverbi che appartengono al passato, ma ancora adesso hanno la loro validità. E come allora, pellegrin che vien da Roma con le scarpe rotte, piedi roce il va, di roce il va, pellegrin che vien da Roma con le scarpe rotte, amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, non vado alla bar. Amor dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, non vado alla bar. E l'allegria la viene dai giovani, e l'allegria la viene dai giovani, e l'allegria la viene, e non dai veci marità. E l'allegria la viene dai giovani, e l'allegria la viene dai giovani, e l'allegria la viene dai giovani, e non dai veci marità.